A un certo punto mi sono accorto che stavo bene e che non stavo pensando all'elefante. E in quel momento preciso, l'elefante mi è tornato in testa, più grosso e ingombrante che mai. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti di un lunedì qualunque, 2 maggio del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Non pensare all'elefante. La frase non pensare all'elefante viene dagli 11 punti, credo. Sì, 11 punti che un linguista americano ha stilato qualche tempo fa per la campagna elettorale americana, in cui in sostanza dava consigli ai democratici su come battere i repubblicani. E tra i vari punti, tra gli 11, ce n'era uno che diceva: ricordarsi di non pensare all'elefante. Se accettate il loro linguaggio e vi limitate a contrabbattere, sarete sempre perdenti, perché rafforzerete il loro punto di vista. Questo punto però, quello del non pensare all'elefante, può uscire dai vincoli della politica, può essere applicato a moltissimi spunti della vita quotidiana. Ognuno di noi, ogni giorno, si sveglia con un elefante in testa. Un pensiero fisso, qualcosa che ci lascia al palo e non ci permette di andare avanti. Qualcosa che magari non abbiamo costantemente in testa, però ci torna in mente a cadenza regolare, mentre lavoriamo, ad esempio, durante la pausa pranzo, mentre stiamo giocando a tennis o mentre stiamo parlando con un amico. E può essere un elefantino, minuscolo, che in fondo non dà grossi problemi, dà solo un po' di fastidio, cose tipo il ritornello di una canzone che detestiamo ma che non ci va via dalla testa, oppure una decisione che abbiamo preso ma che non riusciamo a mantenere, o un esame che si avvicina a cui non riusciamo a fare a meno di pensare. O può essere gigante invece, può essere un elefante pesante, un pensiero talmente ingombrante che ci impedisce di pensare ad altro, addirittura di fare altro. Un lavoro che abbiamo perso, un compagno o una compagna che non c'è più, uno sport che non possiamo più fare, un'occasione che ci siamo fatti scappare, un acquisto che non abbiamo fatto e non tornerà più, una vacanza che è stata troppo bella o un periodo della nostra vita troppo felice. Ecco, qualsiasi sia l'elefante a cui anche voi non riuscite a non pensare, io sono qui. E il numero è sempre quello, è 800240024 per chiamare in diretta oppure per mandare un sms, 349-238-6666. L'elefante che non vi togliete dalla testa. C'è un altro elefante che in questo periodo tutta la redazione di Io Sono Qui non si toglie dalla testa, ed è il fatto che il 12 di maggio del 2011, esattamente tra una decina di giorni, 9 giorni, 12, giusto, 10 giorni, siamo a Torino al Salone del Libro. Il programma sarà in diretta, quindi alle 16 saremo lì. Sto cominciando a chiedervelo da qualche tempo, quello di mandarvi una cosa, mandarmi un racconto di una pagina o poco più, diciamo una pagina, perché se dico poco più ne arrivano subito due o tre. Io sono qui, @radio24.it, un racconto molto semplice di un episodio della vostra vita, qualunque esso sia, della vostra infanzia, della vostra vita passata, un episodio che vi hanno raccontato, che avete vissuto ieri, un anno fa o 10 anni fa. L'importante è che sia un episodio vero e che sia soprattutto un episodio che in qualche modo racconta di voi, un racconto che racconta della vostra vita. Continuano ad arrivare e vi chiedo di continuare a farlo. Se volete spedirmele, io sono qui, @radio24.it, appunto. Altrimenti ci vediamo al Salone del Libro giovedì prossimo e me le date a mano. Vi leggo un pezzettino di un racconto che è arrivato, che è molto bello. È un racconto di Margherita e si intitola Il viaggio. 3 ottobre 2007. È aperto l'imbarco per i passeggeri del volo 4596 delle 7:45, diretto a Londra Gatwick. Ok, e ora andiamo. Il posto sull'aereo con questa compagnia te lo puoi scegliere tu. Tutti vogliono sempre stare davanti, che così scendono per primi. Io preferisco il mezzo, che se bisogna fare un atterraggio d'emergenza, se prendo una botta davanti, forse io mi salvo. E se qualcosa va a fuoco dietro, idem. E preferisco il corridoio anziché il finestrino, più o meno per gli stessi motivi. Ecco il posto perfetto, in mezzo all'aereo, corridoio, affianca un tizio che prega. La preoccupazione, la precauzione non è mai troppa. Sistemo lo zaino nella cappelliera sopra di me, la borsa sotto il sedile, allaccio la cintura e mi tengo tra le mani una boccetta di fiori di Bach. Beh, iniziamo a prenderne un paio. 5 minuti, 7, 10, 15, l'aereo non parte. Mentre aspetto, i motori si accendono, è passata quasi un'ora. Il volo passa senza voti d'aria, senza turbolenze, senza rumori strani. O forse è grazie a questa boccetta, ma ormai è finita. Avvisiamo i gentili viaggiatori di riallacciarsi la cintura. L'atterraggio è previsto tra 10 minuti circa. Guardo fuori dal finestrino, tentando di scorgere la mia nuova terra. Vedo solo nuvole. Nuvole viola. Le questioni sono due. O questa terra è davvero fantastica, oppure ho decisamente esagerato con i fiori di Bach. Io sono qui, chiocciolaradio24.it. Questo è solo un pezzo di questo racconto che è molto divertente. Ringrazio Margherita per avermelo mandato. Non andranno persi questi racconti, ne faremo qualcosa. È un progetto più ampio di cui vi parlerò magari al Salone del Libro o comunque da qui alla fine del programma, alla fine di giugno. 800240024 invece, per raccontarmi qual è l'elefante che non vi togliete dalla testa o dallo stomaco, come in quella pubblicità di quello che ha mangiato pesante e c'ha il cinghiale, che trovo molto divertente e anche a Fabio piace. Allora, L'ho beccato quelli che scrivono i nomi al contrario su Facebook, perché uno che si firma Odracir non è altro che Riccardo, che non vuole far sapere il suo nome e si scrive al contrario. Ma non lo leggo sto messaggio perché mi ha fatto innervosire il nome. Barbara, il mio elefante è un dubbio, un certo dubbio che ormai mi si è affezionato. Rossana, il mio elefante è avere mandato una mail illudendomi di non essere stata tracciata. Evidentemente è stato il contrario. Michele, il mio elefante è il numero 43. Sono pazzo? Ce n'è qualcuno. C'è qualcosa, sì, c'è una citazione, credo che sia una citazione, come giustamente suggerisce Bonini, però non so quale sia. Sara, il mio elefante è il motivetto della pubblicità dei pan di stelle, continua a risuonarmi nella testa e non c'è verso di spegnerlo. Non chiedetemi qual è, che non mi viene in mente. Marco, il mio elefante è l'esame di tecnica bancaria, è un tormento, me lo segno pure di notte. Luca, sono un metallaro e Dio mi sta punendo, è da 5 giorni a questa parte che il mio elefante è la canzone nuova di Jennifer Lopez. 800240024 349 238 6666. Qualunque sia il vostro elefante, il pensiero fisso che avete in testa da un giorno, da un mese, da un anno, 800240024. Il mio elefante invece è decisamente un altro. Lo so che ve lo chiedete e non è che io non abbia notizie dalla Georgia, è ovvio che mi arrivano. Sento Natalie su Skype quasi tutti i giorni, ci mandiamo mail, messaggi, semplicemente non lo racconto, cioè non lo racconto nei dettagli, perché ci sono cose che credo non vadano raccontate nei dettagli, o almeno sto iniziando a crederlo. La vita là è piuttosto complicata per le persone che ci vivono, e anche per quelle che ci vanno a lavorare. Lei sta bene, ed è felice, quindi lo sono anch'io. Quella che sto per leggervi è una delle mail che mi ha inviato. Le ho chiesto il permesso di leggerlo, ovviamente. Lei mi ha raccomandato di tagliare i passaggi sensibili, dal momento che in teoria il ministero ha accordi con le Nazioni Unite, per cui gli osservatori non raccontano nemmeno ai familiari quello che accade là. A me sta cosa da 007 fa un po' ridere, però le ho promesso che avrei omesso le parti sensibili e avrei letto solo quelle riguardo alla vita di tutti i giorni. Ed eccoci qua. Quando siamo atterrati, come al solito, mi sono resa conto che le idee che avevo in testa erano sbagliate e preconcette. L'aeroporto di Tbilisi sembra quello della Costa Smeralda. Nuovo, le pareti in vetro, negozi delle marche più costose e persone che partono e arrivano di corsa, come dappertutto. Viviamo in 6 in una grande casa su 2 piani. Ognuno ha la propria stanza. C'è una cucina enorme e un salotto grande, grande quanto casa nostra, con uno schermo al plasma. Siamo molto più coccolati di quanto io pensassi, e i coinquilini sono simpatici. Ci sono una svedese di 40 anni, 2 ragazzi francesi della mia età, un signore ucraino e una ragazza tedesca. Il primo giorno ci hanno caricato su un furgone e ci hanno fatto fare il giro della città. Il secondo invece è iniziato il corso. Dunque l'obiettivo della missione qui è quello di tenere sotto controllo il disarmo. Gli osservatori visitano le caserme e verificano che le armi siano tutte... Ecco, questo mi sa che non lo posso leggere. Aspetta un attimo, arrivo, Ok, andiamo avanti. La cosa più traumatica è stato il corso di guida sul blindato. A turno, 2 alla volta, si esce in pattuglia per le strade che costeggiano il confine con la Russia. I mezzi che usiamo sono dei fuoristrada della Nissan, di quelli che a Milano si usano per andare a fare l'aperitivo. Solo che questi qui sono blindati. Hanno veti antiproiettile, sono rinforzati sulle portiere e pure sul fondo. Inizialmente io ero convinta che ci fossero delle persone che avrebbero guidato, no? Un po' per tutti, degli autisti. Invece ieri mattina siamo andati in uno spiazzo dove c'erano sti 2 blindati e a turno abbiamo preso lezioni di guida. L'istruttore era un ragazzo georgiano, molto simpatico, ma che non parlava una parola d'inglese. Io ho imballato alla prima partenza, poi mi sono messa in sesto. Siamo saliti in cima a una collina piena di sassi. Io non vedevo la strada a 2 metri di distanza, perché il fuoristrada è altissimo. A un certo punto ho visto i sassi che si muovevano. E lì ho capito che quelli non erano sassi, erano tartarughe. E mi sono fermata subito perché non volevo schiacciarle. Solo che il mio istruttore mi ha detto che per motivi di sicurezza non ci si può mai fermare in mezzo a una strada. Io mi sono messa a piangere e lui si è messo alla guida al posto mio. Il lavoro è magnifico. Tu mi manchi e sono felice perché mi manchi e perché il lavoro è magnifico. Ti abbraccio. PS, mi raccomando, Matteo, non leggere in radio le cose che ti ho scritto. Ogni tanto, qualcosina, tienitela per te. Questa mail mi è arrivata sabato sera. Io l'ho letta e riletta. Ero divertito, ma anche un po' abbrutito. Quindi domenica mattina mi sono messo di buzzo buono per non pensare alla lontananza, alle Nazioni Unite e al fuoristrada blindato. Ma era proprio come non pensare all'elefante. E mentre pensavo che non dovevo pensare all'elefante, Ettore ha suonato il campanello. L'ho riconosciuto perché lui è talmente timido che perfino il campanello suona sottovoce. Ho fatto quasi fatica a sentirlo. Quando ho aperto la porta, Ettore era vestito come le madri vestono i figli per una giornata all'aperto. Bermuda, maglietta pronta per essere sporcata e un orribile cappellino ecosolidale. Mi ha detto che lui e i suoi andavano in campagna da amici a fare una grigliata e se non avevo niente da fare, a lui faceva piacere se ci andavo pure io. Ho abbracciato Ettore come se fosse il mio salvatore. Mi sono infilato un paio di scarpe da ginnastica e l'ho seguito. In auto Paola, la mamma di Ettore, mi ha chiesto come stava Natalie, che era un po' che non la vedeva, e io le ho raccontato di Tbilisi. Lei era felicissima e diceva che il mondo dovrebbe essere più fatto di persone come lei. Il marito Pietro invece parlava poco. Ad un certo punto mi ha chiesto se era vero che lavorava alla radio. Gli ho detto di sì. Lui mi ha risposto che non mi aveva mai sentito perché loro ascoltano solo un'altra radio. Gli ho chiesto se ci fosse un nesso col fatto che non avevano la TV in casa, però loro non hanno capito. Io ho detto niente. Lui si è giustificato dicendomi che alle 4 è al lavoro e che è un orario difficile. Io gli ho risposto che non c'era nessun problema, che mica ero obbligato ad ascoltare radio, anzi che magari il programma gli avrebbe pure fatto schifo. Dopo un'ora di strada siamo arrivati in un paesino sui Colli Piacentini. La casa era stretta e lunga, su 2 piani, con un giardino sul retro. C'erano 5-6 persone, sulla quarantina più o meno, alcune con figli, altri no. Il più simpatico era Nazim, il padrone di casa, un tizio di origine turca che aveva vissuto in Venezuela e a New York e aveva un accento indecifrabile. Fa il grafico, la sua faccia assomiglia a quella di Walter Matthau, la sua risata sembra metterti a tuo agio. Appena arrivato ho pensato bene di ritagliarmi un posto d'onore alla grigliata usando il vecchio metodo dell'asciugacapelli per far bruciare prima la carbonella. Sono arrivato, ho chiesto alla Betty, sua moglie, un phon e l'ho sparato sulla brace. Tempo 10 minuti e la carne era cotta, le salamelle pronte e tutto deliziosa. Nazim era entusiasta del phon e in un attimo sono diventato il suo migliore amico. A un certo punto mi sono accorto che stavo bene e che non stavo pensando all'elefante. E in quel momento ovviamente l'elefante mi è tornato in testa più grosso e ingombrante che mai. Ma per la seconda volta Ettore è arrivato a salvarmi. Mi ha detto che il tema era andato bene, che la maestra alla fine era così entusiasta che lo ha letto davanti a tutta la classe. Lui ovviamente si è sentito molto in imbarazzo, ma alla fine è stato contento. Poi ha aspettato che sua mamma si alzasse la tavola e mi ha confessato che ha iniziato a sentire il programma. Non in diretta, perché spesso è a scuola. Lo ascolta in podcast. Se lo scarica sull'iPod e poi di notte se lo sente nel letto. E mi ha pure detto che gli piace. Io non sapevo se essere imbarazzato o felice che Ettore mi ascoltasse. Poi lui mi ha guardato e mi ha chiesto: Matteo, ma scusa una cosa, ma quello che racconti è tutto vero? E io gli ho risposto: Ettore, tu sai cosa significa non pensare all'elefante? Pronto? Oi Nazim, sono Matteo. Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Bene, ti disturbo? No, dimmi tutto. No, senti, volevo sapere, riusciamo a organizzare uno dei prossimi fine settimana in campagna da voi, che sono in fibrillazione, che devo raccontarti un po' di roba? Questo weekend è impossibile perché vengono il genitore e la Betty. Un altro, dai, facciamo, vediamo una sera, passo a cena da te. Una sera potremmo andare, o questa sera, vuoi passare un bicchiere di vino questa sera? Ok, così. Facciamo questa sera. Ma stai lavorando? Dai. Bravo, sei incasinatissimo? No, le 6 sono io a casa. Sono più tranquillo in questo periodo. Bravo, senti, volevo chiederti perché ne parlavo prima con Tiziano e non mi ricordavo. Tu sei sei nato dove? In Turchia o in Venezuela? Sono nato in Venezuela. Però dopo ho diventato cittadino americano, ma sono nato in Venezuela. Però tua madre turca non c'entra. Sì, sì, c'è la madre turca. Ho capito, però dico, tu non parli turco, tu parli... Una parola, Ciccio. Va bene, Ciccio. Senti, perdiamo lo scudetto, Ciccio, hai visto? Ho visto, una tragedia, le parliamo questa sera. Va bene. Porta una bottiglia di vino, non portare un cazzo. Va bene, Nazzi, ci abbraccio. A più tardi. Dai, ciao. Aspetta, Naz, pronto. Dimmi. Sei qua, ascoltami, ti avrei richiamato dopo. Siccome parlo di te in puntata oggi... avrei registrato un pezzettino di questa telefonata. Posso mandarla? Sì. Bravo. 800240024. Tutti abbiamo un'ossessione. Tutti abbiamo un elefante in testa. Francesca, cosa cucinare per cena? È un incubo. Mi sveglio la mattina e automaticamente penso a cosa fare da mangiare a cena a tutta la famiglia. Arrivo all'asilo e guardo cosa hanno mangiato i bambini a pranzo e poi inevitabilmente batto la testa contro il muro. Uscirò anche da questo tunnel. O forse no, Francesca. Loredana, il mio elefante è la mia pancetta. Passa il tempo e assomiglia sempre di più a quella che aveva mia mamma. Cristina, il mio elefante è il mio ex. Queste sono le cose più facili. Lara, non si tratta dell'elefante ma del coccodrillo nel mio caso. Continuo inesorabilmente a ripetere dentro di me il coccodrillo come fa. Che poi sappiamo di cosa si tratta. 349-238-6666. Il mio elefante è la mia ex che mi ha mollato di punto in bianco appena dopo la Befana, dopo aver fatto 1000 progetti insieme. Il mio elefante sono le due tartarughe, che non so esattamente cosa voglia dire. Marco, questa dovremmo parlarne. Il mio elefante è questo: la sera in cui per colpa del troppo vino ho tradito la mia fidanzata. Lei non ha mai scoperto nulla, ma nei momenti più felici insieme mi viene sempre in mente e non mi fa vivere appieno le piccole gioie che una persona può darti. Marco, secondo me il vero elefante tuo non è il tradimento, è che la sbornia è un alibi. Un volo solo andata per Melbourne, mai preso, è una storia finita, senza un motivo valido. Non riuscirò mai a capire qual era la cosa giusta da fare. Ecco, questo è il mio elefante e vorrei tanto avere la forza di liberarmene per sempre. Ciao! Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi potremmo essere in due posti diversi. In realtà io so che siamo in uno, ma lo so semplicemente perché mi ricordo da dove arriva questa fotografia. La fotografia rappresenta la Torre di Pisa. L'unico problema di questa Torre di Pisa è che non è in Piazza dei Miracoli e non ha il battistero alle spalle, perché siamo a Chicago in questa foto. Ricordo che un ascoltatore mi aveva chiamato dicendomi che era stato, aveva vissuto a Chicago o c'era stato, e lì degli immigrati, credo italiani, avevano ricostruito ma perfettamente la Torre di Pisa, e infatti uno potrebbe pensare di essere in Toscana, perché non solo è uguale ma anche pende. Andrea Fuccaro, 32 anni, agosto 2002, da qualche parte vicino a Chicago, bendato per la sorpresa e in compagnia della mia amica italoamericana. Dopo 30 minuti di guida davanti a noi, la Torre di Pisa, o meglio la Torre Storta di Chicago. Io sono qui. Io sono qui, @radio24.it, per mandare la vostra foto, oppure il profilo è sempre quello, il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui. Invece per vedere questa, per vedere la Torre di Pisa di Chicago, andate sul sito di Radio 24 alla pagina di Io sono qui. Il mio elefante, il mio attuale elefante è farmacologia, Ale da Torino. Il mio elefante è la scena del giardino nel film Il Padrino, in particolare la frase "un altro pezzo a 90". e Brando che si accarezza il viso con il dorso della mano. Da 2 anni ci penso tutti i giorni. Stefano. Il mio elefante è l'esame di algebra. Il mio elefante è la mia migliore amica che mi ha piantato 2 anni fa senza spiegare niente. Il mio elefante è il pensiero di laurearmi in medicina e non entrare alla specializzazione perché non ho la raccomandazione. Marilena, 80024 0024. Andiamo a Treviso da Michele. Pronto Michele? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Grazie per essere qui, Michele. Tu hai un elefante che è abbastanza, diciamo, quantomeno ha dei confini abbastanza precisi, perché è il Brasile. È ingombrante come elefante. Direi di sì, ma perché il Brasile? Perché, come poi ho scritto nei messaggi, ci andavo spesso per lavoro. Ho fatto 5 anni in cui andavo giù almeno 2 mesi all'anno. Che cosa facevi? Io lavoravo per un'azienda che si occupa di edilizia, si occupa ancora di edilizia questa azienda, e giù in Brasile a San Paolo avevamo una commerciale, una commerciale, io ero responsabile per quel mercato, quindi ogni mese e mezzo, 2 andavo giù e stavo 15-20 giorni ogni volta che andavo. Dove stavi esattamente? Perché il Brasile è gigante. Il Brasile è gigante, no, la sede era a San Paolo, gli uffici commerciali erano a San Paolo, e quindi poi dopo si era creato anche questo legame, no, con quelli che erano i colleghi, con il direttore della filiale, con tutti quelli che erano i colleghi dell'ufficio. Ma questo nel senso che tu ci andresti a vivere in quel paese oppure semplicemente hai un bel ricordo? No, io ci andrei anche a vivere in quel paese. Io poi ho portato giù anche la moglie, quando c'è stata un'occasione di una fiera a San Paolo, ho portato giù anche la moglie per farle vedere un po' quello che era il Brasile. Poi abbiamo fatto quella volta là, abbiamo fatto un fine settimana. Ma dimmi, scusami Michele, dimmi perché, dimmi un motivo per cui il Brasile ha questo fascino particolare per te. Ha questo fascino particolare, ma a parte il Brasile grande, quindi poi alla fine trovi tutto sempre ovunque, dal punto di vista di qualsiasi cosa, no? Anche paesaggistico, dal punto di vista delle persone, dal punto di vista del mangiare. A San Paolo è una città che vive 24 ore su 24. Senti Michele, ma tu dove abiti, Michele, perdonami? Prince Treviso, Conegliano. Ah, ok, e sei sempre vissuto lì? No, io sono romagnolo di origine, però dal 91 vivo in provincia di Treviso. Senti, progetti di spostamenti, però mi sembra di capire che non ce ne sono. No, non ce ne sono, perché poi abbiamo anche una bambina piccola di 2 anni e mezzo adesso, quindi poi va bene. È difficile. Michele, in bocca al lupo per tutto, ti ringrazio per la telefonata. Grazie. Ciao, buona giornata. Grazie. Andiamo sempre a Verona, cioè sempre in Veneto, andiamo da Vera. Pronto, Vera? Pronto, sì, Matteo, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, dai. A parte l'elefante, tutto bene. Dimmi qual è questo elefante, però. Allora, l'elefante è mio fratello che da un giorno all'altro ha deciso di andare nella legione straniera in Francia. Cioè, praticamente è un ragazzo colto, non so, non è un delinquente, non ha niente da nascondere, niente da, non so, da annientare del suo passato, così. È così, ha deciso di andarci e basta. Quanti anni ha, Vera? Mio fratello ne ha 26 quest'anno. E cosa faceva prima? Lavorava, studiava? Prima faceva il cameriere, infatti era bravissimo, cioè molto bravo, poteva trovarsi un lavoro senza problemi. Ma ha mai avuto velleità di vita militare? Ha mai pensato? No, non ho mai pensato. La verità è che quando era più giovane, cioè prima di praticare il pugilato, lui ha fatto un po' di pugilato e era anche molto bravo. Anche lì, ma vabbè, pugilato è tutta un'altra cosa. Ma senti Vera, scusami, quando è partito? È partito da una settimana, sì, una settimana e 2 giorni. Cioè, e hai sue notizie? Non ho nessuna notizia, il fatto è anche quello, perché lì non può chiamare nessuno. Senti, ma in quale base della legione straniera è? In Corsica? Allora no, è andato a Nizza. Però io dopo questa sua partenza sono diventata un'esperta della legione straniera. Beh, immagino. Niente, lì però non farà niente, dovranno mandare da un'altra parte, ecco, insomma, vicino a Marseille, ecco. Marsiglia. Senti, sì. Come te l'ha detto, scusami? No, me l'ha detto così, cioè lui praticamente, noi siamo stranieri, ha ricevuto il permesso di soggiorno, che anche quello mi mette un po' in così. Di dove sei, Vera? Di dove sei? Sono Moldava. Ok, Ha ricevuto il permesso di soggiorno il 22 aprile e il 23 mattino è partito. Wow. Cioè così, non so come mai questo bisogno di cambiamento, però vabbè, siccome siamo un po' pazzerelli in famiglia, allora ho detto vabbè, lo capisco da un... Vabbè, di solito la ferma per la legione straniera sono 5 anni, mi pare di ricordare. Sì, 5 anni, sì. Lui ci ha già provato una volta, quando sì, prima di venire ancora in Italia, però non l'hanno preso perché insomma era un ragazzino, era piccolo, era... Vabbè, magari... Magari te lo rimandano indietro, Vera. Io spero tanto, spero. Ti ringrazio molto, Vera, in bocca al lupo. Grazie per tutto. Grazie. Ciao, buona giornata. Il mio elefante è il numero 666 e spesso i numeri doppi visti su cellulare e orologi tipo 11 11 22 22 3 3 3 3. Qui sì, diretto dal neurologo. Tra l'altro Laura Faggin mi scrive che il numero 42 arriva proprio da Guida Galattica per autostoppisti. Allora Vera, Zaira credo che sia, da Roma, pronto? Ciao Matteo, ciao. Sì, sono Zaira. Zaira, io sono qui, morivo dalla voglia di dirlo. Bravissima Zaira, di dove sei tu? Sono di Roma. Sei italiana quindi? Sì. Nonostante il nome che invece... Guarda, mia madre mi voleva chiamare Gwendalina, mia nonna mi ha detto no, chiamiamola Zaira, non so quale sia il peggio. Ma che nome è Zaira, da dove arriva? Zaira è arabo e significa fiore di primavera. Benissimo, ok, ci hai dato tutte le indicazioni e adesso invece dici qual è il tuo chiodo fisso, Zaira. Guarda, il mio elefante sa un po' l'Alzheimer, perché ogni tanto si dimentica di questa cosa per poi ritornare in momenti, come dire, impensati. Nel senso che vorrei andare via. Via da dove? Dall'Italia o da Roma? Dall'Italia, vorrei andare a Londra. Tu che cosa fai nella vita, Zaira? Impiegata. Quanti anni hai? 35. Hai la voce di una bambina, però. Sì, lo so, veramente ho anche l'aspetto della bambina. Ogni volta che dico, ma davvero, sembri più giovane. Senti, cosa vorresti andare a fare a Roma, a Londra? Guarda, lì vorrei, io sono una persona molto creativa, quindi vorrei, anche perché ogni volta che vado a Londra ho sempre la sensazione che lì tutto sia possibile, cosa che non sento qui a Roma. Anche se di solito questa sensazione ce la si ha quando si va a fare i turisti, Zaira, poi quando si vive di solito è un po' diverso, però ho anche la sensazione che se magari non l'hai ancora fatto, un motivo c'è. Oh, più di uno, sicuramente. Tu sei tipo fidanzata, sposata, c'hai dei figli? No. Quindi questo elefante, voglio dire, è presente, ma lo puoi anche cavalcare volendolo. Sì, lo so Matteo, però sai che certo, ho messo un sacco di tempo per avere un posto a tempo indeterminato, certo. Sicurissimo. Certo. Adesso, che azienda è Zaira? Che cos'è? È parastatale. Parastatale? Mm-mm. Non si può dire che cos'è. Evitiamo, anche perché mi chiamo Zaira, quindi... Beh, secondo me comunque t'hanno già beccata. Non credo ci siano tante Zaire che lavorano in un'azienda parastatale, no? A Roma. Oddio, magari invece sì. Zaira, senti, ti faccio molto in bocca al lupo. Anche a te. Ti auguro una buona giornata. Tutto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Intanto c'è un messaggio che mi scrive Laura. Umberto da Roma ha chiamato per tranquillizzare Vera, perché lui è stato nella regione straniera e... Ah, e volevo tranquillizzarla, che va tutto bene, vabbè, e allora siamo a posto. Chiudo la puntata di oggi leggendovi quelli che sono gli altri punti di questo libro, visto che per tutta la puntata ho parlato di questo libro che si chiama Non pensare all'elefante, di questo autore che si chiama Lakoff, che è appunto uno di questi 11 punti. Questo è Non pensare all'elefante e questi sono i punti del suo pensiero. Punto primo. Riconoscere che i conservatori sono stati bravi e i progressisti hanno perso il treno. Sono stati bravi a creare dei frame, delle cornici che riflettono la loro visione del mondo. Secondo, ricordarsi di non pensare all'elefante. Se accettate il loro linguaggio, sarete sempre perdenti perché rafforzerete il loro punto di vista. Terzo, ricordare che la verità da sola non basta a rendere liberi. Dire la verità sul potere non basta, bisogna presentare la verità in modo incisivo, dal proprio punto di vista. Quarto, parlare sempre della propria prospettiva morale. Cercate di chiarire quali sono i vostri valori e usate il linguaggio dei valori. Abbandonate il linguaggio dei politicanti. Quinto, capire da dove vengono i conservatori. Sapere contro che cosa si sta combattendo. Sesto, ragionare in modo strategico e trasversale sui problemi. Settimo, pensare alle conseguenze delle proposte. Ottavo, ricordare che gli elettori votano per la loro identità e per i loro valori, che non coincidono necessariamente con i loro interessi. Nono, unirsi e collaborare. Decimo, essere attivi e non reattivi. Undicesimo, parlare alla base, in modo tale da attivare il modello del genitore premuroso, negli elettori indecisi. Grazie a Fabio Rudi Cantadori, grazie a Tiziano Bonini, a Laura Foggin e grazie anche a Stefano D'Andrea. E grazie in particolar modo a Puccio che mi scrive questo messaggio. Il mio elefante è suonare Spain intonata con il contrabbasso. Nei live faccio certe sgommate che i gota del jazz si rivoltano nella tomba. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?